Ottobre piovono libri. Per le iniziative di Ottobre piovono libri, oggi andiamo a Roma. La libreria Rinascita organizza l'aperitivo con l'autore, un modo per conoscere gli scrittori e i loro libri in modo divertente. E tutto questo succede in un quartiere popolare come la Garbatella, dove fino a qualche tempo fa non c'era una libreria di zona. Ma in che modo questi eventi possono attrarre pubblico e avvicinare la gente ai libri? Risponde il gestore della libreria, Vincenzo Gallico. Credo che possano aiutare nella misura in cui comunque non viene offerta semplicemente una presentazione stilizzata, tra virgolette, noiosa del libro, ma ci sono scrittori, ad esempio, molto bravi, molto capaci, che hanno anche una qualità di performance. Se pensiamo a Tiziano Scarpa, Raul Montanari, Flavio Soriga, ad esempio, loro hanno un'altissima qualità di presentazione, riescono a far divertire molto il pubblico. Credo che in quel caso la presentazione diventi uno spettacolo, un evento, e da lì quindi ci potrebbero essere maggiore vendibilità e anche maggiore partecipazione alle future presentazioni. E il nostro Savino Gallo ha seguito uno di questi aperitivi con lo scrittore, quello con Alfredo Colitto, autore del noir Il Candidato, e ha raccolto i commenti del pubblico. Io sono una ferma sostenitrice del fatto che l'autore si esponga direttamente e parli del suo libro con i lettori, perché si vede una dimensione completamente diversa. Conosco Alfredo Colitto solo via internet, da anni ormai, e mi sembrava l'occasione giusta per poterlo avvicinare di persona. La presentazione è l'unico mezzo che uno ha per poter incontrare un autore, e personalmente, se posso, cerco sempre di andare. Ho già partecipato anche non solo per quanto riguarda libri, ma in generale per cinema, quant'altro, quindi è una cosa che mi interessa. Lui nello specifico non lo conoscevo e quindi è stata un'occasione in più. Il prossimo aperitivo con l'autore alla libreria Rinascita di Roma è per venerdì 23 ottobre con Marco Lodoli, che presenta Il Rosso e il Blu, Cuori ed Errori nella scuola italiana. Per tutte le informazioni su queste ed altre iniziative di Ottobre piovono libri, www.cepel.it oppure radio24.it. Anche per oggi è tutto, un saluto ad Alessandra Tedesco. Ottobre piovono libri, in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura.